Con Laura Consumati, presidente del Carnevalone Liberato, festa dell'autoliberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio. Benvenuta, Laura. Ciao. Grazie, Senti, diamo qualche cenno storico. Quali sono le origini di questo Carnevalone? grazie. Beh, allora la festa è una festa che trae origine da una rivolta popolare che c'è stata qui a Poggio Mirteto. Poggio Mirteto era stato pontificio, ovviamente, del territorio quindi del papato, e il 24 febbraio del 1861 ci fu appunto questa rivolta che coinvolse diversi strati della popolazione poggiana, che era molto, probabilmente anche molto più eterogenea di adesso, perché le idee che circolavano in quel periodo erano anche idee liberali, c'era un circolo anarchico, un circolo anticlericale per la vetreria che coinvolgeva moltissimi operai, no? In queste attività politiche particolari. E soprattutto, ecco, in un paese così cattolico e sotto al papato, questa rivolta portò all'autoliberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio, prima quindi della Breccia di Porta Pia, no? In Sì, pratica. sì. Quindi Poggio Mirteto si liberò molto prima, e dopo la rivolta, diciamo, questa è un po' parte, quella è storia, questa invece è un po' una parte di leggenda. Si dice che una delegazione di questi operai andò dal marchese Gioacchino Napoleone Pepoli, che era, diciamo, di stanza qui, no? Dalla provincia di Perugia, per chiedere l'annessione al Regno d'Italia, e lui gliela concesse. E propose alla cittadinanza, no, di premiarla facendo passare questa ferrovia Roma-Orte a Poggio Mirteto, però loro a questa offerta preferirono che fosse celebrato ogni anno una festa a ricordo di questa liberazione, e di concedere quindi che questa festa fosse celebrata la prima domenica di Quaresima, quindi dopo il periodo canonico del Carnevale, no? Sì. Niente, questa tradizione si è mantenuta fino ai Patti Lateranensi, quindi nel 29, con il fascismo, fu soppressa, perché comunque, no, in ottica di una politica di alleanze con il Vaticano. E nel 1977 un gruppo di allora ragazzi, adesso non più molto ragazzi, decise di conservare, scusami, di ripristinare questa festa, e quindi questa festa laica, la prima domenica di Quaresima, e riprendendo la tradizione che si era interrotta nel 29. E nel corso degli anni poi questa festa è diventata, beh, quello che conosciamo tutti, no? Insomma, è cresciuta esponenzialmente, diciamo che dalla fine degli anni 90 ai primi anni 2000 ha raggiunto picchi molto alti. Sì, diciamo che è diventata un appuntamento imprescindibile dell'anticlericalismo a livello, direi, nazionale. A livello nazionale sì, credo che sia rimasta forse, non dico l'unica, ma una delle pochissime feste, Sì. perché un anno abbiamo fatto anche un gemellaggio col Festival Anticlericale di Fano, che Sì. sì, ci chiesero una statua che qui a Poggio Mirteto fu uno scandalo, perché uscì dopo i fatti della Madonna di Civitavecchia che piangeva sangue Sì. praticamente, no? Quindi noi, in spirito puramente carnevalesco, abbiamo fatto questa statua che piangeva vino, era il miracolo divino, no? La popolazione contro questa blasfemia, in realtà, beh, se è carnevale, no? Si sovverte la gerarchia apposta, altrimenti il carnevale è. E l'abbiamo portata in trasferta a questa festa. Adesso non so se la fanno ancora o se la fanno in tono minore. Comunque sì, siamo rimasti, diciamo, uno degli ultimi presidi di festa laica a carattere anticlericale in Italia. Senti Laura, dal 1977 ad oggi, com'è stato e com'è il rapporto con la popolazione nel suo complesso del paese e con le istituzioni? Allora, la festa, diciamo che con il paese ha momenti di alti e bassi. Quando abbiamo avuto un problema 4 anni fa, abbiamo avuto un problema proprio con le istituzioni, cioè noi siamo quelli un po' più controllati di tutti Sì, nell'organizzare le sì. feste rispetto agli altri, no? Quindi ci vengono chiesti molti più permessi, molta cura, no? Sì. Nell'organizzazione di questa cosa, nel dettaglio. Abbiamo avuto la solidarietà di molta, di larga parte della popolazione, perché abbiamo dovuto poi sospenderla ed annullarla quell'anno, la festa, proprio in corso. E abbiamo ripreso la tradizione, diciamo la tradizione, perché 3 anni fa abbiamo fatto un'edizione di protesta proprio per questo, siccome quel giorno viene particolarmente militarizzata la zona della Sabina, cioè questa festa viene percepita dalle forze dell'ordine come una festa di rischio, diciamo, medio-alto, no? Sì. E quindi abbiamo sempre avuto questo rapporto particolare con le forze dell'ordine, che però devo dire ultimamente riusciamo a collaborarci. Quest'anno la collaborazione è stata molto stretta, no? Dopo i fatti di Torino, e quindi la circolare Gabrielli che ci ha un po' più frenato nell'organizzazione. Però devo dire che la gente di Poggio Mistero si divide in due, sì, su sì. questa festa. C'è, cioè, chi non la può vedere perché dice che il paese è invaso diciamo, persone che vengono da fuori, e invece ci sono persone che invece lo appoggiano e ci aiutano, come tutti i nostri volontari. Senti, ci dici come è strutturata l'edizione di quest'anno, questa domenica? Allora, questa domenica abbiamo numerosi artisti. E la festa inizia sempre alle 11:30, sì, e con l'entrata in piazza del Bamboccio, che è una sorpresa, e sarebbe un pupazzo, no? Come sempre, certo, che certo. rappresenta una situazione politica del momento. E le diverse postazioni musicali, quest'anno ospitiamo Adriano Bono, di Sbronzi di Ace, Minimo Sindacale, e Ber Brodas, i No Funny Stuff e l'Italia Migrante, e abbiamo quindi parecchi punti musicali che si alterneranno nelle esecuzioni, e poi molti artisti di strada che invece porteranno i loro spettacoli itineranti nella piazza, come il Teatro del Ramino con Trampoli, Fiammetta e Scintilla, Trampolieri, anche Giocolieri. E abbiamo ben 4 bande marcianti. Ah, che bello! Inoltre abbiamo una special guest di quest'anno, che è un gruppo folcloristico di Roma, che si chiamano i Mariachi Roma Titlan. Sì. Sono proprio mariachi messicani che faranno il loro spettacolo nella piazza. Senti, dalle 11:30 immagino fino a tarda serata. Allora, all'imbrunire c'è il rogo del Bamboccio, sì. e quindi la fine della festa, in pratica, okay. Che tutti gli spettacoli si concluderanno alle 19:30. Ok. Senti, è previsto anche un servizio di trasporti? Sì, ogni treno che arriva da Roma, quindi sulla linea che arriva a Poggio Mistero Scalo, è associato a una navetta che porterà poi su al paese. E poi c'è la possibilità anche di con pullman turistici proprio al paese, perché abbiamo adibito una zona per questo. Ok. Senti, sono previsti... Se tutti vengono organizzati, insomma, con cioè, parecchi in una macchina o comunque con pullman, è più semplice. Sono previsti anche stand vostri e di e altre sì. strutture per materiale vario informativo? Allora, c'è... Allora, quest'anno la grande novità di quest'anno sono dei pseudo-varchi. In realtà non sono proprio varchi, perché non possiamo mettere degli ostacoli, perché per la questione della sicurezza, certo. è circolare, no? Gabrielli, dicevo prima. E quindi quest'anno abbiamo delle persone che all'entrata, agli ingressi del paese, conteranno gli ingressi e poi daranno anche informazioni riguardo la festa. Lo stand che ci sarà in piazza, quello con la dicitura stand ufficiale, è la nostra, diciamo, quasi unica fonte di sostentamento, perché noi non riceviamo contributi da nessun ente. Dico quasi perché ci reggiamo con i proventi del nostro stand e con i contributi volontari degli altri standisti che arrivano per quel giorno, e i commercianti di Poggio Mistero che vogliono. Dico molto pochi commercianti di Poggio Mistero, però qualcuno fa una donazione. Okay. Senti, a questo punto ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora, sui social Carnevalone Liberato su Facebook, poi il nostro sito internet per qualsiasi informazione sulla viabilità è www.carnevalone.it. Perfetto. Allora, ricordiamo Carnevalone liberato, festa dell'autoliberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio, domenica 18 febbraio a partire dalle 11:30. Un saluto alla presidente Laura Consumati, un abbraccio e ci si vede a Poggio. Vediamo domenica con un bicchiere di vino insieme. Ciao, grazie.